I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il dato di ieri della disoccupazione è sceso sotto una soglia psicologica importante. In agosto infatti si è passati dal 12% all'11,9%, con un calo destagionalizzato pari in un anno al 5%, vale a dire 162.000 unità uscite dalle file del non lavoro. E l'occupazione conta 325.000 occupati in più, sempre in ragione d'anno, pari a un terzo dei posti persi negli ultimi 8 anni della crisi. Gli inattivi, coloro che per sfiducia non cercano lavoro perché non si aspettano di poterne trovare uno, sono diminuiti di 248.000 unità. Si conferma quindi il travaso dalle file della disperazione a quella della disoccupazione attiva e per questa via all'approdo finalmente all'agognato posto di lavoro. Quelle di agosto sono state per lo più assunzioni femminili e a tempo determinato, favorite dalla nuova legge che deregolamenta le causali e allunga i tempi di ingaggio di questi contratti. Un dato che mostra segni marcati di una stagionalità legata ai lavori estivi, ma una generale tendenza al miglioramento è comunque in atto, tra alti e bassi, visto che proprio in agosto la disoccupazione giovanile aumenta del 2,1% sul mese di luglio, con 13.000 unità in più, ma anche l'occupazione, d'altro canto, aumenta di 7.000 unità, quindi ci sono segnali contraddittori. L'Italia, come noto, spreca il capitale umano femminile più di altri. Il dato di ieri però segna un calo annuo del 7,3% della disoccupazione tra le donne. Se questo dato venisse consolidato nelle rilevazioni successive, magari assieme a quello che in luglio ha fatto intravedere un aumento di posti di lavoro al sud, l'Italia allora davvero avrebbe svoltato. Ma è presto per dirlo e soprattutto dobbiamo sperare che il ciclone Volkswagen non abbia conseguenze da noi, ma nessuno può davvero escluderlo, anzi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'Italia guarda ai fondi sovrani del mondo e soprattutto, ed è una differenza rispetto al passato, i fondi sovrani guardano all'Italia con interesse crescente. È finita oggi la 2 giorni di incontri a Milano, voluta dal Fondo Strategico Italiano e dalla Cassa Depositi e Prestiti, culminata con un vertice all'Expo che ha visto partecipare 34 fondi sovrani in rappresentanza di ben 31 paesi. Il ministro Padoan ha ironizzato sul fatto che nella sala convegni era presente un valore pari a quasi 3 volte il PIL dell'Italia. Qatar, Cina, Norvegia, Kuwait, Singapore, Abu Dhabi, solo per citarne alcuni che operano già nel nostro paese. Ogni fondo naturalmente ha una sua cultura di investimento, esigenze strategiche diverse, culture e religioni differenti, ma tutti sono interessati a vedere se l'Italia ha fatto davvero i progressi che ha promesso. E ora guardano a 3 obiettivi, le medie imprese con un fatturato superiore ai 100 milioni e inferiore a 1 miliardo, il settore immobiliare, le infrastrutture, possibilmente se collegate al piano di rilancio europeo degli investimenti. Nel 2014 questi fondi hanno già investito in Italia 2,21 miliardi di dollari, con un aumento del 47% rispetto all'anno prima. Forse non lo ricordiamo, ma il fondo della Libia, ad esempio, sta in Unicredit, Enel, Finmeccanica, FCA. La Cina è presente in Eni, FCA, Saipem, Telecom, Prismian, Mediobanca, Generali e ha acquisito la Pirelli. E guarda già alla privatizzazione imminente delle Poste, puntando a una quota tra il 2 e il 5%. Il Kuwait è interessato a ferrovie e grandi stazioni, il Qatar è già proprietario dei grattacieli di Porta Nuova a Milano e intende potenziare il suo investimento. Insomma, il capitalismo globale è questo e a un paese che vuole rilanciarsi serve anche questo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.